con Anna Kauber, regista del documentario In questo mondo, che sarà a Roma, allo spazio Apollo 11, lunedì 13 maggio 2019, proiezione e incontro con l'autrice. Anna, ben trovata. Ci Ciao, ciao a tutti. racconti di questo film? Nasce da lontano perché ho iniziato a questo viaggio a incontrare le donne pastore, videoregistrate nel 2015, quindi è una narrazione davvero antica. Era un viaggio che secondo i miei calcoli sarebbe durato un annetto perché era in tutta Italia, in effetti poi si è così realizzato. In verità poi sono stati praticamente 2 anni di viaggio e di incontri, dalle Alpi lungo la dorsale appenninica fino alle isole, ho intercettato queste figure femminili abbracciando un range molto aperto perché sono circa un centinaio, appunto dai 20 ai 102 anni. Quasi tutte che vivono nelle montagne, nelle nostre montagne mezze abbandonate, incontri meravigliosi, strepitosi, da cui poi si è estratto con un'opera davvero di selezione spesso dolorosa, si è creato, grazie anche all'abilità di Esmeralda Calabria, il film, il documentario. Fanno vita solitaria? La diversità di ogni narrazione è stata forte, dipende sicuramente anche dal background, dall'età, però alcune sono arrivate a coronare il sogno di diventare pastore, magari proprio anche contro le comunità, il parere che so anche dei genitori, delle sorelle, di tutti. Quando magari erano anche libere dagli impegni, quindi voglio dire, magari senza il marito che poteva osteggiarlo, o i figli già grandi, oppure anche comunque da sole proprio per scelta autonoma. Però insomma, anche no, anche con i loro mariti, compagni, è molto varia l'appartenenza e la storia di ognuna. E in che rapporto sono con le comunità nelle quali vivono? Ma di solito diventano poi positive, entrano in un mondo lavorativo e di cultura maschile, quindi di solito fanno fatica, perché la donna pastore comunque, anche se è sempre esistita, soprattutto nella zona alpina, diciamo dall'Appennino tosco-emiliano in su, ecco, la figura della donna pastore c'è sempre stata, pochissimo narrata. Infatti credo appunto di avere comunque delle testimonianze inedite, soprattutto per quanto riguarda le più anziane. Sono osteggiate all'inizio, però ce la fanno poi a guadagnare proprio il posto, il rispetto, se non altro proprio per l'evidenza, no? Anche di questa vita laboriosa, di questa vita che non concede soste e molto spesso della loro bravura, eh? Perché conducono perfettamente i loro greggi, perché riescono a fare piccole forme di economia, quindi si mantengono, sono autonome e quindi alla fine, insomma, sì, la comunità le accetta. E poi sai cosa c'è? Che a loro non importa proprio niente. Cioè loro alla fine lo fanno, cioè è una chiamata troppo forte, può passare tempo, possono esserci inciampi, però alla fine lo coronano quel sogno lì. Impressioni ne hai ricavato durante questi 2 anni? La certezza che non esiste una unica forma di quello che noi diciamo essere il progresso o la felicità della vita, anzi, è una grande banalità quella che dico, però credi che misurarla su quel tipo di vita che non concede soste, che non concede fine settimana, ma che è sempre davvero in una forte dipendenza dalla tua cura verso esseri viventi, ecco, misurarla su questo vuol dire proprio che forse non abbiamo capito che davvero possiamo ancora ritagliarci degli ambiti di felicità in maniera non esattamente come ci dicono tutti, bisogna trovarle, quindi non in città, quindi non facendo un sacco di soldi. Cioè, ho ricavato davvero l'idea che sapevo già e che sappiamo noi tutti, ma che lì è potente, che c'è un destino per ognuno e che ognuna di loro davvero, e lo si vede nel film, esprime una radiosità, una completezza, pur mai celando la difficoltà, la criticità, ma ci ridono sopra. Perché comunque il ritorno è vedere i propri animali che stanno bene, animali che hanno tutti un nome, animali amatissimi e che davvero posso dire, avendo condiviso con tutte loro, conta che io stavo con ognuna di loro non meno di 2 giorni, ma vivendo, spesso anche dormendo proprio con loro nelle situazioni più, anche particolari, un po' ospite se vuoi, ma il ritorno che ti dà, che ha dato anche a me, no? Questa vita in un'armonia diversa, insomma, che noi abbiamo perso, proprio quella che vede l'alternanza del giorno e della notte, la ciclicità delle stagioni, un respiro un pochino più armonico, direi, più semplice nella pienezza invece di questa esperienza di vita che loro hanno e che io ho assaggiato con loro. Come impiegano il loro tempo libero mentre magari sono ferme con le pecore? Chiamiamolo un ozio attivo, nel senso è un guardare, sorvegliare ovviamente, come fanno i pastori, ma divertente e divertito perché loro mi segnalavano, no? Perché captavano immediatamente, non so, le relazioni che nel gregge potevano avere due di loro, no? Mi indicavano, guarda, guarda quella lì, guarda che buffa, sai, lei è la figlia di. E grandi risate, cioè ti parrà strano, ma effettivamente, cioè, io mi sono innamorata davvero, io vabbè, evidentemente mi piacciono gli animali, ma davvero le dinamiche poi del gruppo, no, loro e questa cosa era fonte continua di divertimento, magari anche di solenni arrabbiature quando non venivano, quando una se ne andava per gli affari propri, però è sicuramente concentrata e anche calibrata sulla vita loro, degli animali. Tu la osservi, la guidi, ovviamente poi li riporti a casa, fai quello che devi fare, ovviamente prendendoti cura, però è molto simbiotica, questa cosa, perché allo stesso tempo gli animali hanno verso il pastore, hanno comunque il riferimento, non è che, quindi è proprio sì, un'esperienza meravigliosa. La consiglio a tutti, passare qualche giorno al pascolo. In un contesto di consumo del suolo, immagino che però siano sempre più difficili gli spazi a disposizione. Infatti stanno in montagna, non a caso, nel senso che se anche la montagna, per dire quella delle Alpi, è una montagna estremamente ricca e quindi per pascolare in alpeggio pagano fior fior di soldi gli alpeggi perché insomma sono spazi contesi, in verità tutto l'Appennino nostro è fortemente abbandonato, quindi non c'è quella ressa tale per cui. Certo, se i pastori sono un pochino verso più la collina, per non parlare di quelli del litorale o comunque sì, delle zone di pianura, come quelli che poi scendono in inverno dagli alpeggi nella stagione invernale e vanno giù nelle pianure, lì c'è proprio una sorta di circuitazione, di accordi sempre per poter portare gli animali nelle terre coltivate del tale o del tra l'altro. Quindi è tutto un lavoro che è diventato fortemente normato, non è più un tempo, li chiamavano i gratta, no? Quelli che grattavano l'erba degli altri, andavano di notte a far mangiare l'erba delle loro pecore nei campi altrui, l'eterna lotta fra Caino e Abele, no? Fra gli agricoltori e i pastori. E oggi no, c'è cioè chi lo fa, è un pastore mal visto anche dall'altra comunità dei pastori perché rende poi le cose difficili anche a quelli invece che si comportano bene e che sanno dove portare i loro animali perché hanno avuto i vari permessi, eccetera. Apro e chiudo la parentesi. In verità poi c'è anche una vessazione burocratica, lo sappiamo, no? La mastodontica burocrazia italiana colpisce tutti e colpisce fortemente anche loro, che non hanno francamente tempo libero per poter dedicarsi a queste cose, se lo devono ritagliare. Insomma, vabbè, e qui si apre poi il capitolo di questa nostra Italia così complicata da un punto di vista o troppo facile da un altro, ecco. Che percorso sta facendo il tuo documentario? Conta che io sono partita da sola, in solitaria, non avevo troupe anche perché non mi avrebbero accolto e non sarebbe nata poi la cifra migliore del documentario che è la redazione, cioè queste donne se avessero avuto i cameraman, la troupe, la microfoni attaccati, è tutta presa diretta, è tutto materiale vivo, anche perché loro vanno e tu li segui, non è che loro si possano fermare per te. Ecco, quindi c'è stata questa grande lavorazione e poi, voilà, colpo di scena, si è vinto l'anno scorso il Torino Film Festival come miglior documentario italiano, dopodiché ha vinto anche Extra Doc Festival lì al Cinema Maxi come miglior documentario dell'anno e poi anche un premio speciale a Trento. È stato chiamato dall'ambasciata italiana in Cina a fare, scusa, in India, a fare un tour importante nella giornata della ricerca italiana. Bello, importante anche questo, grande merito. Tuttavia, si sa che nei circuiti dei cinema il documentario viene sempre visto un po' così, un po' cosà. Ecco, quindi non abbiamo la forza di poter avere una distribuzione, noi cerchiamo di fare quel che, e poi ci vogliono appunto cinema coraggiosi come l'Apollo e come altri che investono su questa, su quest'idea comunque dei documentari belli, dei documentari diciamo d'autore, come credo che sia questo. E poi tante associazioni che ce lo chiedono, devo dire che questa è, oggi come oggi forse è la maggior parte delle richieste, sono proprio associazioni importanti che lo vogliono per portare il tema, insomma, cioè quindi il bello che ha il film è bello, il film è importante, ma è anche denso di contenuti e quindi un po' su questa gioca su questo doppio binario, insomma. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Internet, anche lì è una parola grossa. Noi abbiamo una pagina Facebook che è stata attivata all'epoca quando abbiamo intrapreso questo piccolo crowdfunding, perché conta che ce lo siamo tutti autoprodotto e non abbiamo avuto nessuna risorsa tranne qualcosa della Regione Lazio e poi questo crowdfunding che ci ha portato un pochino di risorse, insomma, e però ha avuto il merito di creare una pagina che è abbastanza seguita, si chiama In questo mondo il film e lì anche confluiscono le richieste sulla posta quando qualcuno vuole fare un evento, una manifestazione, un qualcosa e ci chiede il film o ci chiede altre informazioni. La produzione è Solaris, Fondazione delle Arti di Parma, che ha il suo sito internet ovviamente funzionante e quindi c'è anche il film in mezzo a queste cose e poi vabbè, ci si rivolge a chi film di Esmeralda Calabria o a me come Anna Gauber che comunque forse sono quella che se ne occupa di più di tutti, insomma, perché ci ha lasciato un pezzo di cuore E sulle montagne con le sue pastore. allora ricordiamo il documentario In questo mondo a Roma allo spazio Apollo 11 lunedì 13 maggio 2019, proiezione incontro con la regista Anna Kauber. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie mille, salve a tutti. Voglio vedervi tutti lì e proprio a rendere omaggio a queste pastore meravigliose. Ciao ciao!